La maella, né, Gennari, guarda un po' chi c'è sta nel negozio di Don Ciccio Mozzarella. Madonna mia, quella spacciata era andata, siamo compare suo. Mo sta arrivando pure Isaia. La maella, qua succede un macello. Madonna santa. Era il primo di novembre, festa triste dei defunti. Isaia, fra la gente, se ne andava febbricitante, quando in una botteghella con Cicciullo Mozzarella lui divide tutta arzilla la perduta sua zazzà. T'ha già fine ritrovata? Oh mia zazzà, se ci tieni alla tua vita, se vuoi campà. Mo prega San Gennaro che possente la grazia può fa. Isaia è squilibrato ed un macello di tende farà, sai la donna più perversa. Non c'è pietà, vedo già il sangue sparso, non un dramma. Isaia che fesso non è, con Cicciullo che degno di tempo ti diceva, vattela a pigliar, zazza. Se ci penso al triste giorno che t'ho persa tra la folla, io soffrivo, io piangevo, ti cercavo come un folle, ma tu brutta svergognata sei scappata con Paolo, poi Cicilla e poi Cicciullo, e mo buffa una società. T'ha già alfine ritrovata, oh mia zazza, come t'hanno ridotta, mo fai pietà. Mio caro San Gennaro, m'hai ridata la mia zazza, ma è tutta scancherata e da Cicciullo la voglio tornare come un bue a due corna a me. Aggia brutta, mo è giunto il mio turno, non ci pensavo. Un cimbello facesti di me, tua sorella è più furba di te, lei mi sposerà, mi comprenderà. Zazza. E ti finisce se viva la storia.